Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Come cambiano le nostre percezioni e le nostre abitudini anche di consumo a bordo del Corona Coaster? Una definizione molto efficace che rende bene l'idea di un percorso, quello che abbiamo imboccato per l'emergenza Covid, fatto di depressione e di picchi continui. A coniare questa definizione l'agenzia creativa McCann, che con una ricerca globale 16.000 persone in 18 paesi, tra cui l'Italia, cerca di capire come stiano cambiando gli equilibri per i brand e i consumatori, così come per le industrie e i mercati. Lo andiamo dicendo da tempo, la sostenibilità sta diventando un fattore competitivo sul mercato in grado di guidare le scelte d'acquisto. Notizia di questi giorni, Amazon inizierà a contrassegnare i prodotti eco-friendly con una nuova etichetta che farà riferimento ad almeno una delle 19 certificazioni di sostenibilità esistenti. Oggi vi raccontiamo la storia di una startup italiana e relativa app. Si chiama A-World, vuole indirizzare le persone verso uno stile di vita più sostenibile per generare un impatto positivo sul pianeta ed è stata selezionata dall'ONU per supportare la campagna globale Act Now contro il cambiamento climatico. Una tematica che portiamo avanti anche nel focus sui trend di questa settimana con una nuova selezione di prodotti sostenibili ad alto tasso di innovazione, dalla pelle di cactus al packaging di alghe. It's a roller coaster. Alternano proprio come sulle montagne russe i periodi di calma e quelli di panico a seconda del livello di preoccupazione e di ansia per la pandemia, e questo ha grandi ripercussioni sulle nostre abitudini quotidiane, dalla mobilità alla socialità, dallo shopping ai viaggi. In Italia durante l'estate la preoccupazione era calata al 43%, dal 65% iniziale, ma ora è di nuovo risalita oltre il 50%. Lo rivelano i dati della ricerca firmata McCann, ne abbiamo parlato con il CEO Daniele Cobianchi. Noi abbiamo questo think tank internazionale che si chiama The Truth Central, che si occupa di fare ricerche e di monitorare quelle che sono le tensioni culturali, mettendo un insieme di dati a disposizione dei nostri clienti. È chiaro che l'arrivo del Covid ha fatto sì che questo centro di analisi si dedicasse quotidianamente all'analisi del Covid. E quindi abbiamo messo in piedi una ricerca che si chiama The Truth About Covid-19, una ricerca che in realtà è iniziata quando è esploso il Covid, ma non è ancora finita, perché è una ricerca che è continuamente in aggiornamento, e adesso siamo arrivati alla settima wave, proprio perché in realtà le condizioni da monitorare cambiano giorno dopo giorno. Molto interessante, ho visto il dato sulla fiducia nei media, ma anche nei social media, sono entrambi in discesa. Una persona su quattro a livello globale dice di aver smesso di informarsi perché non reputa veritiere le informazioni. Sì, diciamo che questo è un altro dei temi collaterali, cioè l'incertezza delle informazioni, sia da un punto di vista scientifico e sia da un punto di vista invece di informazione di media, e quindi questo poi porta a diverse tesi e a creare delle aspettative da un lato e delle delusioni dall'altro lato, che portano poi le persone a un'altra cosa che abbiamo monitorato, a una sorta di auto lockdown, che è più un tema psicologico, cioè quello di fermare i consumi, preferibilmente di rimanere a casa e di continuare una vita più legata al lockdown, anche se in realtà ci sarebbe, con cautele e nelle modalità corrette, l'opportunità invece di tornare a una vita relativamente normale. In questo scenario di grande incertezza, le Marche che cosa devono, che cosa possono fare? Voi scrivete la miglior forma di immunità per i brand in questo momento sarà quella di giocare, continuare a giocare un ruolo significativo nella vita delle persone. Ecco, su quali direzioni? In che modo? Le Marche, quando sono veramente così, quindi quando hanno un equity, e quindi quando rappresentano una serie di valori condivisi con le persone, è come se fossero i nostri migliori amici, cioè anche nel momento di difficoltà il nostro miglior amico probabilmente troverà le parole giuste o i gesti giusti per aiutarci a superare la difficoltà. Quindi le Marche devono occuparsi delle persone, non utilizzando questo momento per, come dire, trovare delle opportunità di business, ma quanto per candidarsi ad aiutare le persone a vivere nel miglior modo possibile il periodo di grande difficoltà. Quindi questo è il ruolo di una Marca, e lo era anche prima della pandemia. Le Marche che riescono a fare quello diventano Marche che entrano nel cuore delle persone, e sono Marche che non verranno mai più abbandonate. Le Marche invece che speculano e utilizzano questo momento per aumentare le vendite o aumentare i profitti, sono Marche che verranno, come dire, dimenticate o associate a questo periodo che io definisco i brand della cattività, che sono brand che vengono scelti perché siamo obbligati in questo momento a fare certe scelte e non farne altre, ma nel momento in cui il vaccino ci libererà da questa costrizione, probabilmente quelle marche non le sentiremo più così vicine. Ecco, in questo senso è aumentata la sensibilità degli utenti, dei consumatori verso determinati temi, e viceversa l'insofferenza verso alcune modalità di comunicazione che fino a marzo erano, gioco forza, comunque accettate nelle regole del mercato? Il mercato si è mosso in un modo molto scomposto dal mio punto di vista. Intanto c'è stata un'invasione della retorica, le campagne retoriche sono state fatte principalmente da brand che in realtà hanno avuto un vantaggio da questa situazione. Il ce la faremo o lo andrà tutto bene e poi lo firmo con il mio brand, in realtà è una modalità per non dire nulla e in qualche misura per continuare a fare quel lavoro di spinta dei consumi in un momento dove in realtà non bisogna spingere, ma bisognerebbe trovare una rilevanza per le persone attraverso le marche. Molte marche hanno anche deciso di fermarsi. Io non condanno chi si è fermato, ma il ruolo di una marca è di continuare a comunicare nel bene e nel male, essere sempre presenti. Adesso noi, giusto per fare un piccolo esempio con un nostro cliente importante che è il Consorzio del Prosciutto di Parma, loro si sono trovati in un momento, naturalmente con l'Oreca bloccato e con il lockdown, che hanno avuto qualche difficoltà sui banchi taglio. Quello che abbiamo fatto noi è stato quello di aiutarli a ricostruire una rete anche distributiva, facendo in modo che tutte le salumerie italiane, le più piccole, quelle che erano a rischio perché i clienti non entravano, potessero invece essere ricomunicate e rilanciate tramite un brand come Prosciutto di Parma, che non si è occupata di vendere il prodotto, ma si è occupata di dare a più di 2000 salumerie italiane l'opportunità di avere visibilità sui social, di avere comunicazione e di fare in modo che le persone si riavvicinassero a questi salumieri o questi negozi di quartiere per poter contribuire alla salvaguardia di una filiera che è fondamentale. Se noi pensiamo all'Italia, a tutte le filiere che abbiamo, quello che dovremmo fare tutti noi è contribuire a fare in modo che la filiera nella quale partecipiamo possa essere attivata dai nostri sforzi e che a sua volta possano attivare altri sforzi. Ora ci fermiamo per una piccola pausa. Nella seconda parte, spazio alla storia di un'app che ci aiuta a ridurre il nostro impatto ambientale, spazio anche ai prodotti sostenibili che fanno tendenza, dalle Nike Must Have agli accessori in pelle vegetale. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento Essere e Avere. Now is not the time for retreat. Questo non è il momento per indietreggiare. La devastazione sociale ed economica causata dalla perturbazione climatica sarà molto più grande dell'attuale pandemia. Ma restando uniti ora per riprenderci al meglio dalla pandemia, possiamo usare il recupero dagli effetti del Covid-19 per assicurarci un futuro più sostenibile e resiliente. Così così poco tempo fa il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Da più parti si stanno moltiplicando gli appelli a non abbandonare l'impegno per l'ambiente nonostante la pandemia. Per farlo abbiamo bisogno di essere sempre più consapevoli degli effetti delle nostre abitudini di vita e di consumo. Ecco perché questa sera parliamo di A-World, startup italiana e relativa app selezionata proprio dalle Nazioni Unite per la campagna Act Now contro il cambiamento climatico. Ci racconta tutto il cofondatore e presidente Marco Armellino. A-World è un'app che guida le persone verso una stile di vita più sostenibile, quindi è una guida verso la sostenibilità. Ma A-World è anche una piattaforma, perché dietro la nostra applicazione c'è una vera e propria piattaforma che è stata creata e studiata proprio per incentivare, misurare e formare le persone alla sostenibilità. L'applicazione di A-World, che in realtà si chiama sugli store A-World in supporto ad Act Now, è un'applicazione sviluppata in partnership con le Nazioni Unite in supporto della campagna Act Now delle Nazioni Unite, che vuole stimolare le azioni individuali nel contrasto del climate change, quindi del cambiamento climatico, quindi far capire alle persone l'importanza delle proprie azioni per contrastare il cambiamento climatico. Cosa facciamo? Offriamo quotidianamente contenuti alle persone, possono interagire con i contenuti rispondendo ad alcune domande e in cambio di queste risposte ottenere dei punti. I punti servono a far comprendere alle persone quanto stanno migliorando nella loro conoscenza, ma parallelamente vengono suggeriti anche dei comportamenti sostenibili. Ogni giorno la persona può tornare, segnare come fatte tutte le azioni che si è ricordato di fare e quindi si troverà un vero e proprio profilo personale con tutti i risparmi generati. Quindi il nostro approccio è sempre quello di misurare il risparmio, misurare l'impatto e misurare il cambiamento per dare alle persone quello che a loro manca: informazioni chiare e una misura di quanto sia importante l'impatto che stanno avendo nel contrasto della crisi climatica. La piattaforma può essere integrata dalle aziende per fare lo stesso lavoro con i propri dipendenti o con i propri clienti. Ad esempio, lavoriamo con Greenpea, che è il nuovo centro commerciale di prodotti completamente sostenibili creato dagli stessi fondatori di Italy, quindi dalla famiglia Farinetti. All'interno di questo centro commerciale, che sta per aprirà a dicembre a Torino il primo, ma si espanderà in giro per il mondo sul modello di Italy, A-World è tutto il sistema di loyalty e reward a 360 gradi basato sulla sostenibilità. E parimenti lavoriamo anche con Flowy, che è la nuova banca mobile di Mediolanum, anche questa completamente orientata ai temi della sostenibilità, e anche lì offriamo contenuti e gamification legati ai temi della sostenibilità per incentivare le persone a vivere una vita più sostenibile. Noi ci siamo dati questo obiettivo: vogliamo unire persone, aziende e organizzazioni che vogliono avere un impatto per creare una cultura della sostenibilità. Focus sui trend. Continuiamo a parlare di sostenibilità dal punto di vista dei prodotti. Il rispetto dell'ambiente ormai si accompagna ad un alto tasso di innovazione, ma anche di coolness, diciamo così, e lo testimoniano i casi che ha raccolto per noi Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Iniziamo dal settore della moda, parlando di accessori, di componenti, perché ormai il discorso della sostenibilità riguarda l'intera filiera. Parliamo di paillette, frivolo ma vero. Ecco, la designer Elisa Brunato ha avuto questa intuizione vincente e ha progettato queste biopaillette compostabili per andare contro alle paillette tradizionali, che sono di solito realizzate in plastica di petrolio o resine sintetiche. Un straordinario progetto comunque di ricerca e di design di materiali per trasformare la cellulosa in scintillanti paillette biodegradabili. Cellulosa, che è una risorsa naturalmente abbondante, viene comunemente ottenuta da pasta di legno o dal cotone. Come la plastica, la cellulosa può essere manipolata per creare un materiale leggero, resistente. Inoltre, la forma cristallina della cellulosa riflette la luce, rendendo le paillette naturalmente luccicanti, senza bisogno di ulteriori trattamenti chimici. Altro materiale critico, diciamo così, per la moda è non recentemente, ma da sempre, la pelle. Si stanno moltiplicando in questo periodo le alternative vegetali. un altro straordinario progetto sviluppato da Adrian Lopez e Marte Cesares, un duo creativo di Guadalajara in Messico, che hanno pensato di creare un'alternativa vegetale alla pelle, come tanti altri creativi, però è la prima realizzata delle foglie di fico d'India. Per più di 2 anni hanno sperimentato per creare questa alternativa che fosse ecosostenibile ed etica, però dovevano anche garantire resistenza, traspirabilità. Alla fine sono riusciti a produrre un materiale simile alla pelle per la consistenza, la texture, molto più economico e ovviamente vegan friendly. Si può realizzare numerosi oggetti, non solo per la moda ma anche per il design, per poltrone. L'uso del nuovo tessuto vegetale potrebbe anche portare benefici concreti all'economia locale, partendo dai produttori locali che coltivano i fichi d'India, perciò un progetto davvero intelligente e innovativo. In un'ottica di sostenibilità di filiera, come dicevamo in apertura, è impossibile non parlare del packaging e anche qui si cercano alternative sostenibili. Si sa che la plastica monouso rappresenta oltre il 50% del problema di rifiuti di plastica, uno dei maggiori problemi del nostro pianeta. E così il designer Wenwen Fan ha deciso, attraverso la sua ricerca, di proporre un'alternativa sostenibile alla plastica monouso. Che cosa però? Le alghe come alternativa. Le alghe, che sono soprannominate anche oro verde dagli scienziati, sono un alimento base e alimento veramente diffuso nelle diete asiatiche. Così Wenwen Fan ha immaginato che non solo si possono mangiare perché sono altamente nutrienti, ma potrebbero persino diventare un ottimo involucro vegano degli pack per confezionare il cibo, che possono essere utilizzati come contenitori per snack commestibili e sacchetti solubili, ma che possono inoltre aggiungere anche un extra valore nutritivo al snack contenuto. Il progetto si intitola Sea With You e non solo suggerisce delle confezioni realizzate con alghe, ma anche degli involucri personalizzati per diversi gusti e nutrienti, visto che le confezioni stesse sono commestibili. Chiudiamo con un brand molto noto, come tutti i top brand, impegnato sul fronte della sostenibilità e dell'innovazione. Parliamo di Nike. Le Nike Air Vapor Max 2020 Fly Knit sono le hit sneakers del momento, a partire dal giorno del loro lancio alla fine di luglio. Una innovazione di design circolare, perché il filato usato, il fly knit, è costituito per circa il 67% del peso totale da materiali di scarto di produzioni industriali, oltre ad altre componenti ovviamente riciclate, dalle bottiglie di plastica o qualsiasi altra cosa che Nike riesce veramente a fare entrare all'interno della sua produzione. Lucia Cromesca, grazie, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Chiudiamo parlando di fotografia in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, parliamo di un festival in particolare. Buonasera Maria Luisa e ai nostri radioascoltatori. Sì, parliamo di un festival, ho avuto la fortuna di partecipare a uno dei talk. Si chiama Cortona on the Move, è il festival internazionale di visual narrative, posticipato anche fino alla fine di ottobre, si potranno visitare le mostre. Il tema quest'anno era The COVID Visual Project. Ha invitato fotografi di tutto il mondo, ci sono anche bravissimi fotografi italiani, a documentare, a inviare i loro lavori, realizzati soprattutto in quarantena in tutto il mondo. Qualche esempio: Andrea Frazzetta è il fotografo che ha scattato le famose immagini dei infermieri con i visi segnati dalle mascherine, Alex Maioli, che ha realizzato un servizio meraviglioso durante i momenti più drammatici della quarantena, e poi abbiamo anche fotografi italiani nel mondo che su New York, addirittura nella Terra del Fuoco, hanno documentato. Perché mi sembrava importante? Perché la fotografia è stata in questa fase davvero quasi più importante delle parole, no? Tutti ricordiamo le due immagini, forse le più forti, quella dell'infermiera tra l'altro foto scattata dalla collega dottoressa, quindi non da un fotografo che si è accasciata per la stanchezza sul computer, e quella drammatica dei camion militari, anche quella è una foto scattata a Bergamo da uno steward che era in quarantena. Quindi proprio l'importanza della dimensione visiva, visuale in questa vicenda, che è anche un'indicazione per le aziende, no? Che non sottovalutare mai la potenza dell'immagine. CortonaOnTheMove.com è il sito dove si possono ritrovare queste fotografie. Quale spazio ha oggi la fotografia, Francesco, nelle arti visive, nella comunicazione? Quale spazio si è ritagliata nell'epoca in cui appunto i telefonini, i device digitali ci hanno resi un po' tutti fotografi? Diciamo che era una fase, almeno prima del Covid, in cui i videomaker sembravano aver preso il sopravvento sui fotografi. Ebbene, io credo, e queste mostre lo dimostrano, che in questo momento abbiamo bisogno anche di fermarci a riflettere, e che la fotografia, più che il video, possa raccontarci la realtà in modo nuovo. Segnalo un ultimo giovane fotografo, si chiama Mattia Balsamini, che è andato a fotografare le aziende che lavoravano durante la pandemia, quindi ha fotografato i dettagli di chi si proteggeva, ma anche proprio l'attività dei processi industriali, e sono anche quelle delle immagini fortissime, più di qualsiasi video. Quindi io credo che a fronte di questo indebolimento degli ultimi tempi ci possa essere invece una grande riscoperta. Grazie a Francesco Morace. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.